buonasera a tutti, io sono Patrick Curru, bibliotecario qui alla Biblioteca Claudio Augusta. Vi ringrazio di essere venuti anche questa sera molto numerosi. Abbiamo avuto un appuntamento recente venerdì con il Centro di Psicosintesi, anche quello è stato un grande successo, mi fa piacere vedere sempre molti nuovi e tante persone interessate alle nostre iniziative. Questa settimana abbiamo organizzato un'iniziativa solo, diciamo così, lunedì, solo oggi, poi ci prendiamo una piccola pausa fino al lunedì 4 marzo. Vi invito a venire lunedì 4 marzo per la presentazione di un libro molto interessante dal titolo Sicurezza. Noi prepariamo sempre delle cartoline, degli inviti che potete poi recuperare giù al piano zero alla nostra biblioteca. Io vi ricordo che questa sera con voi ci sarà il collega Fabio, che della biblioteca naturalmente, che ha recuperato una selezione di libri sempre dalla biblioteca che potete prendere in prestito, chi fosse interessato può prendere in prestito uno dei libri, chi non fosse iscritto alla biblioteca provinciale può farlo, sempre qui al piano zero. Io non vi ruberei troppo tempo. Vi auguro una buona serata, un buon ascolto, ringrazio l'autrice anche Giorgio Mezzarina di essere sempre con noi qui ad accompagnarci in queste belle iniziative. Vi saluto e vi aspetto alla prossima iniziativa se avete voglia, se avete piacere, lunedì 4 marzo, sempre qui nella sala più 1 alle ore 18. Grazie a tutti. Straordinari collegamenti e relazioni con E qui entro in una delle prime questioni che riguardano il lavoro di Barbara Tonza sul rapporto tra letteratura e colonialismo. A proposito delle immagini, lei giustamente sottolinea, credo mi pare nell'introduzione, il richiamo al concetto di discorso di Foucault, cioè il discorso come dispositivo di potere, cioè quindi un discorso non neutro, ma che aiuta a costruire. In questo caso costruisce immagini e le diffonde. Quindi noi abbiamo percezione di realtà diverse, o meglio, acquisiamo informazioni, rappresentazioni di realtà diverse attraverso un discorso che molte volte diventa un discorso, una narrazione dominante. Quanto fosse dominante o quanto sia dominante la rappresentazione di questo mondo altro che è il mondo coloniale in quegli anni e nel dopo, perché il lavoro di Barbara Tonza è interessante perché considerando la letteratura coloniale degli anni propri del colonialismo, soprattutto degli anni 30 in particolare, ma si diciamo prolunga fino anche al dopoguerra, quindi all'età della cosiddetta decolonizzazione. E quindi è interessante per riuscire a capire anche come questo discorso, questa rappresentazione si sia potuta, come dire, ci sia potuta arrivare anche in anni in cui si potrebbe presupporre cambiano un po' i riferimenti, cambiano i paradigmi. In realtà abbiamo a che fare, come spesso accade nei processi storici, ad una sostanziale linea di continuità e mai a cesura, di cui magari dopo anche parleremo. Quindi la prima questione che io ti rivolgerei è proprio questa, cioè l'idea di trovare come chiave di analisi quella del discorso, cioè il discorso sul che viene fuori da queste opere, cioè qual è l'immagine e che tipo di immagine, quanto resistente è questa immagine del colonialismo secondo questa chiave interpretativa che tu hai, che solleciti insomma nel tuo lavoro. Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Allora cercherò di rispondere in modo sintetico alla domanda. Allora, intanto premetto che mi sono occupata di autori che del colonialismo hanno avuto un'esperienza diretta perché sono stati in Africa, nell'Africa orientale essenzialmente, e anche in Libia, quindi si tratta quindi di autori come Tobino, Cesarini, Flaiano ed Emanuelli, le cui opere in qualche modo hanno comunque un valore letterario a differenza di tutta quella sterminata produzione di romanzi coloniali che caratterizzano gli anni 20 ma soprattutto gli anni 30, che invece diciamo accreditano una visione così positiva del colonialismo chiaramente in chiave propagandistica. Ecco, questi sono testi che non sono testi di propaganda, anche perché poi sono stati comunque prodotti in un'epoca in cui il cosiddetto sogno imperiale si stava già sbretolando, quindi cioè con la fine degli anni 30, comunque con l'inizio della seconda guerra mondiale, si vede che l'impero coloniale si sfalda abbastanza rapidamente e viene meno anche tutto, diciamo, tutta la polarizzazione, no? Così fantasmatica che si riuniva intorno a quello che appunto si chiama il sogno africano. E quindi diciamo questi testi hanno in più rispetto ai romanzi coloniali una visione critica del colonialismo, magari non tutti la rielaborano o la approfondiscono allo stesso modo, tutto dipende chiaramente dalla sensibilità degli autori, però c'è comunque una riflessione in chiave appunto critica di quelli che sono anche le rappresentazioni tipiche del colonialismo, però nello stesso tempo diciamo nostri testi hanno anche una profonda ambivalenza, cioè perché da un lato è anche un'ambiguità, da un lato sono critici, ma dall'altro nella costruzione dell'alterità fanno comunque ricorso a tutto quel materiale che si era sedimentato già ai tempi dell'Italia liberale e poi è stato potenziato dal fascismo, e quindi lo reinterpretano, cioè in qualche modo non possono fare a meno di quello che si può definire l'immaginario coloniale. Quindi sono testi che si situano in questa polarità, in questa oscillazione tra carica demistificante da un lato e caratteri funzionali, diciamo così, a quell'immaginario coloniale che si era appunto sedimentato negli anni precedenti. Ok, altro, visto che lei che l'ha citato, il tema dell'alterità, evidentemente l'altro polo dell'identità, cioè nella costruzione identitaria io mi riconosco in rapporto a qualcun altro, altrimenti l'identità non è considerabile, cioè io X e un non X, questo è il rapporto che c'è tra alterità e identità, non esiste l'uno senza l'altro. E la cosa interessante che secondo me tu tratti e viene fuori da alcune pagine del tuo lavoro è questa: quanto è importante l'alterità per la costruzione della propria identità, cioè quanto questi discorsi, queste rappresentazioni sono state importanti per una costruzione identitaria. Io faccio un parallelo, perdonatemi, potrebbe sembrare eccessivo, ma probabilmente non lo è, per essere chiari in questo discorso. Provate a pensare, oggi, quando c'è uno slogan imperante del prima gli italiani, noi gli italiani abbiamo riscoperto una ipotetica identità in un processo quasi di nation building rispetto ad una contrapposizione, contrasto nei confronti di cittadini che sono diversi per pelle, colore, cultura o altro. Noi abbiamo riscoperto che esiste il prima di italiani e noi abbiamo capito che siamo italiani in quanto diversi dagli altri. E stiamo parlando sempre di immagini e di rappresentazioni, quindi è un concetto, un discorso che c'entra anche questo e rientra secondo me in quello che dicevamo prima a proposito del discorso come dispositivo di potere. Le rappresentazioni che oggi abbiamo dell'altro aiutano nel bene e nel male a farci un'idea, una rappresentazione di qualcuno che non siamo noi. E sono immagini potenti, resistenti e persistenti. E questa, io credo, sia uno di quegli elementi che in una riflessione su un'opera come quella di Barbara Tonza ci aiuta forse a trovare anche qualche elemento critico, qualche spunto critico per riuscire anche a capire dinamiche dell'oggi. Ecco, per tornare al discorso dell'identità, ora magari se tu potessi spendere due parole su questo rapporto tra alterità e identità, così come emerge dalle opere e dagli autori che tu hai considerato, soprattutto tra quegli autori che maggiormente hanno mantenuto uno sguardo forse critico, più critico rispetto ad altri. Sì, beh, il tema del rapporto identità e alterità è centrale negli studi sul colonialismo. Tra le varie interpretazioni del colonialismo, infatti, anche Nicola Labanca, insomma, un grande storico che ha studiato in particolare il colonialismo italiano, tra le varie interpretazioni c'è quella per cui l'impresa coloniale serviva a creare e a rafforzare il senso di identità in un paese che si era formato da poco tempo, no? Dal 1861, quindi stiamo parlando del colonialismo precedente al fascismo, quindi del colonialismo dell'epoca liberale. Lo stesso vale anche per il colonialismo interno, di cui anche vari storici si sono occupati, cioè la costruzione, com'è? I meridionalisti in particolare, quindi è stata analizzata l'ipotesi proprio di un colonialismo interno per cui anche il sud è stato razzializzato, come si dice, come sono sottolineato alcuni storici, cioè costruito anch'esso con dei caratteri di allora, inferiorità, ecco, questo è uno degli elementi essenziali, che anche si possono, di parallelismi che si possono fare tra la costruzione del sud all'interno della letteratura, anche, o comunque del discorso, che non riguarda solo la letteratura ma tutta una serie di altri testi, del discorso post-unitario, quindi, e la costruzione dell'identità italiana in rapporto a quella coloniale, cioè un parallelismo tra le due cose. Ma quello che io ho voluto sottolineare in particolare nel saggio è stato quanto segue, cioè considerare le riflessioni di questi autori che sicuramente, appunto, come ho detto, hanno una visione più profonda e più critica del colonialismo, quindi considerare queste immagini in rapporto alla costruzione dell'identità repubblicana. Quindi mi sono spostata oltre il fascismo, anzi si trattava nell'epoca chiaramente repubblicana di ridefinire, rifondare su nuove basi l'identità italiana, e questo verrà chiaramente fatto attraverso intanto una opera di rimozione di quelle che sono le pagine più efferate, più brutali del colonialismo, in particolare dei crimini del colonialismo fascista, e poi verrà fatto anche attraverso la produzione di discorsi, dove per discorsi appunto intendo nel senso foucaultiano, che tendono ad accreditare un'immagine più positiva dell'italiano, quindi gli italiani, c'è cioè il famoso slogan degli italiani brava gente. Quindi i testi, cioè uno in particolare dei testi che ho analizzato, cioè il deserto della Libia, il libro della Libia, il deserto della Libia di Mario Tobino, se posti in relazione con questa costruzione di un'identità repubblicana, appunto basata su questo slogan, diciamo, su questo un concetto essenziale dell'italiano, quindi questo testo ha contribuito, in base all'analisi che ho fatto, ha contribuito a difendere e a costruire una nuova identità italiana. Sì, io rimarrei su questo discorso. Tu hai citato la banca, hai citato i giornalisti, penso alla scuola di De Martino soprattutto, e a proposito delle persistenze della memoria, è assolutamente vero quello che tu dici, cioè c'è stata una rimozione profonda di questo capitolo della storia, ma va anche detto che quando parliamo di colonialismo, probabilmente se rimaniamo sul territorio della storiografia e della storia, noi generalmente abbiamo davanti l'immagine, non so, del primo nazionalismo italiano, del primo Novecento, ancora prima, forse diciamo le piantine di questo nazionalismo, per poi arrivare al fascismo e all'impresa e all'impero. Ma non dobbiamo dimenticarci che nel clima positivista dell'Ottocento c'erano anche importanti pensatori, filosofi, socialisti che vedevano nel colonialismo una possibilità per far affermare il marxismo e la rivoluzione socialista anche nei luoghi lontani dall'Africa più profonda. Penso ad Antonio Labriola, ad esempio, grande filosofo italiano, quello che ha aperto al marxismo in Italia, che sosteneva sostanzialmente che colonizzare nuove terre avrebbe potuto allargare, far crescere innanzitutto la borghesia in quei territori e di conseguenza il proletariato, al fine di una civilizzazione, di un avanzamento progressivo e della società, idee di società, in un'idea universalista evidentemente che ci sta dentro, che sta dentro ad un certo pensiero socialista. Quindi il discorso affrontato su questo piano, capite, è un discorso molto articolato che non può essere assolutamente schiacciato all'impresa fascista degli anni 30, per quanto dal punto di vista sempre storiografico diventa forse il focus più importante per fare uno studio e approfondito sulla deriva razziale del fascismo. dibattito aperto fra De Felice, ricordo De Felice e Collotti, se il fascismo avesse una componente razziale, razzista o meno, si gioca anche su questo capitolo importante. E dal punto di vista della, diciamo, della cancellazione delle memorie, forse va ricordato che solo nel 2006, quindi a pochi, pochi anni da, da oggi, uno storico ha scoperto tra i documenti del, dell'ufficio storico del, dello, dello Stato Maggiore dell'Esercito, ha scoperto dei documenti su quello che è stata la strage di Tseret in, in Etiopia, dove centinaia e centinaia di persone, tra cui donne, bambini e vecchi, sono stati uccisi, gasati con i pite, che tra l'altro era un'arma non convenzionale che doveva non essere usata. E per quanto riguarda il discorso della rimozione di queste memorie, è altrettanto vero che nel dopoguerra probabilmente è stata più forte la volontà di ricostruire, di mettere a tacere, perché altrimenti la ricostruzione non sarebbe partita, non si sarebbe potuta ricostruire una società se avesse fatto profondamente i conti con il suo passato. Basterebbe ricordare qui l'esito dei processi di epurazione come, come, come finito, e tenete presente che il Ministro della Giustizia era Togliatti a quel tempo. Rispetto, rispetto alle questioni della, di come ci si avvicina alla, ad una realtà diversa, lontana, e che comunque si, si domina in un certo senso, a me ha colpito tantissimo, vorrei che tu ti soffermassi un po' su questo, che tra l'altro per me è stata una bella sorpresa, perché non lo conoscevo, questo poeta e saggista delle Antille, Blissan, Edouard Blissan, che introduce questo concetto di opacità, che è interessantissimo da questo punto di vista, a me ha colpito molto, e vorrei che tu spiegassi di che cosa si tratta e poi magari ne, ne discutiamo un po'. Sì, allora abbiamo sottolineato come appunto l'altro venga costruito in modo spesso funzionale alle esigenze di dominio di un, del popolo colonizzatore, diciamo, sull'altro, no? Quindi questa nozione di orientalismo che poi è stata elaborata da Said può essere applicata non soltanto all'Oriente, cioè l'Oriente come appunto costruzione dell'Occidente, ma anche ad Africa, quindi orientalismo in senso ampio. E io ho notato che ad esempio nel romanzo, di Flaiano, Tempo di uccidere, che considero personalmente un capolavoro, nonostante appunto quella suddetta, diciamo, ambivalenza che ho sottolineato all'inizio, ci sia un tentativo di andare oltre l'orientalismo, cioè oltre una rappresentazione dell'altro secondo lo schema, schemi tipici che appunto rappresentano, diciamo, non so, l'essere nativo, cioè l'indigeno o la donna in particolare, come essere inferiore, essere vicino alla natura, quindi un essere che non è dotato di razionalità, è più vicino, è più istintivo. Ecco, ecco, questo tipo di rappresentazione c'è sicuramente anche nel romanzo, ma c'è anche il tentativo di andare oltre. A questo, cioè nel, ad esempio, il padre di Mariam, personaggio protagonista, insomma, del, del romanzo, che è un abissino, un ascaro abissino, cioè uno combattente per l'esercito italiano, e, è rappresentato non nel modo in cui convenzionalmente si rappresentava l'altro, ma come una persona estremamente dignitosa, come un profeta biblico, dice in più punti Flaiano, cioè una figura quasi eratica, carismatica. E questo tipo di rappresentazione si discosta notevolmente da quella che aveva caratterizzato invece i romanzi coloniali tipici. E quindi questo significa, avrebbe significato riconoscere anche un'alterità non riducibile appunto allo, al solito schema, no, coloniale. E in questa analisi mi è venuta d'aiuto la nozione di opacità elaborata dall'Antillano appunto Glissan, che appunto sostiene come l'opacità è proprio un tipo, diciamo, di un riconoscere l'oscurità dell'altro, cioè l'impossibilità di ricondurlo alle maglie concettuali, agli schemi eurocentrici. Quindi infatti nel romanzo le figure di Marian, anche poi Marian alla fine, prima trattata come un essere appunto vicino al mondo naturale, più vicino a un albero che a una donna, dice il tenente appunto protagonista, e poi invece nel proseguo della narrazione viene riconosciuta anch'essa come una figura sacra, cioè sia il padre che la figlia, per tutta una serie di motivi, perché ha vissuto in una capanna dove ci sono delle figure sacre, perché porta un turbante che è un attributo delle sacerdotesse e così via, adesso non so dirvi tutto, però quindi insomma anche nelle parti finali del romanzo si insiste molto, cioè l'ultimo capitolo si chiama Punti Oscuri, cioè c'è la volontà di non di mantenere l'oscurità, l'opacità appunto dell'altro. Mantenere l'opacità dell'altro significa non volerlo ricondurre, non esercitare quella violenza epistemologica che invece caratterizza la visione eurocentrica. E quindi opacità non è solo un aspetto, cioè non sono delle valenze, come dire, epistemologico-conoscitive, ma soprattutto etiche, perché riconoscere l'opacità dell'altro significa rispettarlo anche in quello delle caratteristiche di insondabilità o di mistero che si porta dentro. Questo è, secondo me, un aspetto centrale, probabilmente è uno di quei temi che ha preso centrale. Volevo leggere, mi sono stampato una piccola citazione di Glissan, dove dice: rivendico il diritto all'opacità, ossia a non essere compreso totalmente e non comprendere totalmente l'altro. Ogni esistenza ha un fondo complesso ed oscuro che non può e non deve essere attraversato dai raggi X di una pretesa conoscenza totale. Bisogna vivere con l'altro e amarlo, accettando di non poterlo capire a fondo e di poter essere capiti a fondo da lui. Ricordo una cosa che diceva, era scritto Alexander Langer a proposito del discorso dell'integrazione, della parola integrazione. Diceva che era un po' assomigliava a quelle parole un po' ameba, che potrebbero essere visti in positivo come la volontà di mettere qualcuno a proprio agio, o dall'altra parte in negativo come la volontà di mangiarselo, di fagocitarselo. A me pare importante, interessante, che magari una serata come questa su questi spunti li possa consegnare e permettere di ragionarci un po' sopra, visto che sono questioni che attengono esattamente al momento in cui viviamo, ma non solo qui in Alto Adige, dove siamo più sensibili ai temi identitari, perché nel frattempo sui temi identitari qualcun altro ci sta sopravanzando, visto che i confini noi li abbiamo sempre più in casa. La nostra quotidianità con la presenza del confine o con il confronto del confine e il confronto con l'altro è sempre più presente a livello europeo, non solo più nazionale. Quindi l'idea che con il diverso da noi si tratti di capire quali sono gli strumenti che noi utilizziamo per impostare una relazione che sia una relazione di convivenza diventa sempre più importante. E gli strumenti, guardate bene, di questi strumenti di cui stiamo parlando ancora si parla poco e nulla, perché noi ragioniamo pur sempre solo di emergenza, e nell'emergenza non si pianifica nulla. Mentre invece queste sono questioni che avrebbero bisogno appunto di tempi non solo molto lunghi, ma di strategie e di strumenti riflessione. Cose che su questi temi noi oggi poi siamo molto distanti. Volevo fare un visto che abbiamo parlato anche di storiografia, un appunto al lavoro di Barbara Tonza, dicendo che da un punto di vista dell'impianto della sua opera ha dei riferimenti di una storiografia molto accreditata e quella la più, diciamo, quella che maggiormente è riuscita a scavare e a presentare un volto del colonialismo italiano che finalmente facesse i conti con, tra virgolette, le colpe che ci portiamo, il rimorso che ci portiamo. Ha citato la banca del Boca, ma anche gli storici più vicini a noi, quelli che continuano a lavorare sulle fonti e sul campo. Tra l'altro ci sono alcuni storici che stanno lavorando sulle memorie degli italiani che hanno conosciuto prima, sono stati dominatori e poi se ne sono dovuti andare alla chitichella, ignorati da tutti, e quando sono tornati poi è stato peggio. Per esempio anche ci sono molti storici nuovi, molto giovani, che io ho letto dei saggi molto interessanti, che si sono occupati del colonialismo dopo la fine dell'impero, cioè dell'eredità, di quel che resta dell'impero dopo il 45. E appunto l'idea di fondo è che il colonialismo non finisce quando finisce il dominio politico dell'Italia sull'Africa, ma in realtà non è mai finito, si potrebbe dire, o comunque continua in chiave culturale, cioè continua questo immaginario, e poi soprattutto ci sono una serie di documenti negli anni 50 dove si sottolinea proprio diciamo il ruolo, se vogliamo, neocoloniale dell'Italia in Africa. Per esempio in Somalia l'Italia resterà, sarà, diciamo, avrà questo incarico di, come dire, guidare la Somalia alla democrazia, il periodo definito dell'AFIS, cioè dell'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia, che dura fino al 1960, quando la Somalia, diciamo, come dire, diventa pienamente autonoma e indipendente. E in particolare uno dei romanzi che mi sono più piaciuti, e anche è stata una scoperta, è un romanzo di Emanuelli che si chiama Settimana Nera, e che riguarda proprio delle vicende ambientate negli anni 50 in Somalia, cioè vicende relative alla comunità italiana rimasta in Somalia, diciamo, e di cui l'autore mette in rilievo il perdurare di pratiche di dominio e di sopraffazione da parte soprattutto di ex fascisti che si sono riciclati spesso con la complicità delle istituzioni, e che continuano ad esercitare queste funzioni, come dire, dominatrici, però insomma dietro la facciata della rispettabilità democratica. E questo romanzo è un romanzo impietoso, veramente lucido, perché non solo demisticamente in crisi la propaganda ancora così dell'impero, del fascismo, ma anche la retorica come dire, del lavoro, dell'esportazione della civiltà in Africa, che caratterizza la nuova Repubblica italiana negli anni 50. E quindi e questo, insomma, mi è sembrato particolarmente interessante, e anche un testo che non è stato, che è stato un po' emarginato, no, dal canone letterario, probabilmente anche perché veicolava dei contenuti un po' scomodi, tanto è vero che il regista, che poi un anno dopo la pubblicazione del romanzo fece un film, venne profondamente osteggiato soprattutto dalla comunità italiana diciamo, che continuava a vivere in Somalia. Quindi ci sono più dei saggi che analizzano questo, cioè proprio gli ostacoli che trovò la traduzione filmica del romanzo nel pubblico italiano. Signora, scusi, forse è il caso di dire che la magari aspettiamo che terminiamo, poi diamo la parola agli interventi. For l'ONU, il signor del governo della Somalia e d'Italia. Com'è? fu l'ONU ad assegnare. Sì, l'ONU, certo. Sì, certo, l'ha detto, però era giusto dirlo. Sì, sì, certo, l'ONU, però questo non ha nulla a che fare con, diciamo, il perdurare di queste pratiche. Sì. Cioè, certo che fu l'ONU a dare nel 50 appunto il mandato all'Italia, questo è chiaro. Sì, sì. Per comunicazione di servizio, magari terminiamo fra non tantissimo la nostra chiacchierata, poi evidentemente il microfono è aperto a tutti gli interventi, se volete intervenire, ma magari ora in questa fase permetteteci di tenere questa cosa riservata, per così dire, ma aperta. Il mio è un intervento educato e democratico. Sì, sì, no, era semplicemente per, cioè, in tutte le discussioni esistono delle regole del gioco, per così dire, no? Che se riusciamo a mantenere meglio a beneficio della va benissimo, sì. La ringrazio del suo intervento, come ho detto. Volevo ora tornare su due questioni. La prima questione è: noi ovviamente stiamo qui ragionando di letteratura italiana, colonialismo italiano, ma è un ragionamento che noi potremmo fare a livello europeo. Cioè, non c'è quasi nazione che non sia stata una nazione colonialista, no, in Europa. Quindi è un discorso che noi potremmo tranquillamente rovesciare parlando di rimozione, parlando di rappresentazione dell'altro, di questo problema durante e dopo la guerra, e lo potremmo fare in tutti i paesi europei. C'è un'altra questione che a me interessava discutere con te, ed è una sorta di parallelismo che spero non risulti troppo ruvido. Quando noi facevamo questo lo studio sulle novelle di Teodoro Augusta, venne fuori un'immagine molto forte relativa alla nostra regione, perché erano tutte novelle ambientate in Alto Adige, nella regione dolomitica. Veniva fuori l'idea di una montagna che era una montagna vivificatrice, la montagna dell'ardimento, la montagna, la palestra dell'uomo nuovo fascista. Allora, la terra coloniale, la donna, la terra, il primitivo, cioè quali sono gli elementi che vengono fuori e che anche attraverso la letteratura, probabilmente, ma non è solo attraverso la letteratura, sono, diciamo, quella terra di conquista che permette nell'idea fascista di essere palestra dell'uomo rigenerato. Sì, allora questo è uno dei nuclei fondamentali della storiografia sull'argomento, in particolare un testo che cito tantissimo, è il saggio Colonia per maschi di Giulietta Stefani, che ha proprio studiato il tema che di cui parlavi. Io direi però che nei romanzi che ho analizzato io, l'Africa non è vista, cioè non è vista assolutamente come un elemento di rinvigorimento, di fortificazione, di rigenerazione, esattamente il contrario, cioè proprio perché l'ottica di questi autori non è un'ottica propagandistica, anzi l'Africa è vista come un territorio malato, come una terra di contagio, una terra malsana, per esempio il tempo di uccidere, questo elemento viene fuori ad ogni pagina, ad ogni peso spinto. Quindi è così anche in Tobino abbiamo il tema del deserto e della follia, no? Cioè il deserto, anche perché il deserto è il teatro di operazioni belliche della Seconda Guerra Mondiale, quindi è anche il paesaggio all'interno del quale si perde sempre di più il riferimento al reale, si entra in uno stato allucinatorio, per cui anche il paesaggio africano, che normalmente veniva visto in modo esotico, esotista, in questi romanzi viene visto invece in una chiave completamente diversa. Ed è questo un po' che segna un po' la differenza con un certo tipo di letteratura che invece era orientato nel senso che dicevi tu. Sì. Bene, io farei un'ultima annotazione conclusiva e poi apriamo, visto che probabilmente ci sono anche persone tra di voi che vogliono chiedere qualcosa all'autrice o intervenire brevemente, se possibile, su queste questioni. Ed è, spendiamo queste due parole per guardare l'altra faccia della questione, cioè che cosa rimane, che cosa è rimasto di questi paesi una volta che la decolonizzazione è stata avviata, che tipo di società è rimasta lì, perché è quello, quando noi diciamo che abbiamo detto prima che il discorso sull'alterità è sostanzialmente una chiave per cominciare a fare un ragionamento sulla propria identità, è altrettanto vero che va al contrario. In tutte le storie di confine abbiamo, diciamo, o solo vittime o solo carnefici, stiamo da una parte o dall'altra, cioè il tentativo di rimuovere le colpe va da una parte o dall'altra. Quindi che cosa rimane, che cosa è rimasta come identità in queste terre? Che tipo di ricostruzione c'è stata di questi paesi, il nazionalismo che è nato in questi paesi e che si è confrontato con un passato del proprio paese che aveva vissuto questa depredazione spaventosa del colonialismo, che è stato un colonialismo di rapina sostanzialmente, che ha fratturato le esistenze, le preesistenze dal punto di vista sociale, economico, culturale, che ha lasciato ferite aperte, che hanno evidentemente dall'altra parte alimentato componenti del nazionalismo più spinto e che probabilmente hanno messo a tacere tutte le compromissioni che ci sono state anche con i regimi coloniali a quei livelli. Ecco, dei percorsi quindi ancora infieri, mai ancora risolti, e dall'altra parte però ancora oggi, come dicevamo prima, una narrazione, un discorso, una rappresentazione di quei paesi e di quella, diciamo, confine, quella parte del mondo che molto spesso servono per legittimare un'idea eurocentrica del mondo. Noi siamo attualmente a questo livello, quindi ben vengano studi che magari entrano molto nel particolare, perché il tuo lavoro è stato in un'analisi fin nei particolari, dentro alle righe delle singole opere. Una delle domande che ti volevo fare, ma quanto si rischia di perdersi dentro a queste analisi? Direi, io qui concludo e lascio la parola a Barbara, se vorrà interloquire ancora per quest'ultimo passaggio, e poi lascerei la parola a lui. Sì, io non sono una storica, questo saggio che ho scritto è una parte della mia tesi di dottorato in letteratura e romanze, quindi riguarda essenzialmente l'analisi di testi letterari, però condotti da un punto di vista disciplinare e con l'ausilio della lente, diciamo così, epistemologica degli studi postcoloniali, questo per dare un'idea, insomma, dell'operazione che ho tentato di fare su questi testi. Quindi sconcordo con il discorso più generale che hai fatto tu, no? su che, qual è la ricostruzione fatta all'interno dei paesi oggetto del colonialismo. Io direi che se mi muovo in un ambito essenzialmente letterario potrei citare i testi degli autrici, autori migranti che hanno letto e riletto l'esperienza coloniale da magari da un punto di vista completamente diverso. Cito in particolare La regina di fiori e di perle di Gabriella Germandi, proprio perché lei si basa sul romanzo di Flaiano, e lo rovescia, cioè riscrive l'episodio chiave del romanzo di Flaiano, cioè il tenente che stupra e poi uccide l'indigena, lo rovescia volutamente, no? Cioè, diciamo, riprende un elemento chiave della narrazione, come dire, di parte italiana, e lo trasforma in un episodio in cui invece è una guerrigliera che uccide il tenente italiano, quindi ecco, fa un'operazione di rovesciamento, forse più che di riflessione, di rovesciamento. E quindi io credo che comunque la letteratura abbia una funzione, o abbia avuto anche una funzione importante nel, come dire, porre all'attenzione tematiche complesse su cui è difficile comunque, no, trovare una soluzione univoca. Sono questioni veramente che coinvolgono storie di vari paesi e complicità a qualsiasi livello, quindi però la letteratura può svolgere una funzione di contronarrazione, ecco, possiamo dire, rispetto a quella che è invece la versione, la narrazione magari dominante, egemone. E questo ho cercato io di fare, però concentrando l'attenzione non sul presente ma essenzialmente su testi del dopoguerra, per sottolineare come questi testi, che pure non hanno avuto una grande fortuna nel canone letterario, hanno cercato di incrinare la narrazione ufficiale sul colonialismo italiano, cioè di insinuare perlomeno dei dubbi. E io ho tentato di fare questo e insomma spero di essere riuscita. Grazie. Sono domande, prego. Ho sentito tante cose anche positive, mezza le negative. Se permettete, passo al mio esempio personale. Ho una figlia che è medico pediatra a Bolzano, è da 12 anni che fa le sue ferie lavorando in Etiopia. Parte domenica prossima, io mi alzo un po', lei arriva lì, trova una povertà assoluta, non trova neanche medicinali, e la sua prima cosa è a cercare medicinali per questi bambini che però sono sempre molto contenti, tornano sempre molto contenti. 10 anni fa ne ha adottati due, erano lì da soli proprio, li ha portati a Bolzano, adesso sono così e tutti. È andata un'adozione benissimo, sono bravi, sono. Sta finita. Credo che il rapporto di mia figlia con l'Etiopia sia molto positivo. Conosce addirittura l'Etiopia come l'altro padre. Due anni fa gli hanno chiesto con un altro di fare il giro dell'Etiopia, di tutti gli ospedali pediatrici, per vedere di cosa hanno proprio bisogno. E sono venuti a Bolzano e hanno tentato di mandare qualcosetta. Bene. Lei parte domenica, se vi potete fare un pensierino, facciamo la mia. Andiamo questo. Ma rapidissimo, lo posso fare? Prego. La convivenza, la migliorare, l'avete solo accennato, però è un grande problema dell'Alto Adige, però accennato l'avete bene, sì o no? Certo. Sì, appunto. Io tempo fa ci ho vissuto dentro in questo. All'inizio era italiano e tedesco, adesso il problema si è allargato, però è migliorato un po' fra italiani e tedeschi nella storia. Io ho scritto un libretto, sarà presentato con l'aiuto del giornalista Ettore Francefane fra 2 o 3 settimane in un'altra periodo. Proprio sul tentare, conoscendosi, di avere un rapporto migliore. Il rapporto fra italiani e tedeschi è un po' migliorato. Perfetto, io qui entrata dentro ho sentito di quelli che dicevano già qua tutto negativo, non è qualcosa di positivo, cioè, però sono nel frattempo problemi, si sono allargati, sono arrivati gli militari che tutti adesso incominciamo non solo a livello di Bolzano ma a livello nazionale, sentire un politico che dice posso dire andate tutti fuori dei piedi più o meno è così, e non è vero perché è povera la gente che qualche volta non ha neanche dato quello che serve. Grazie per la testimonianza. Prego. Posso? Sì. Torniamo sul tema. Volevo chiedere, in questo tipo di letteratura che lei ha analizzato, premesso che la decolonizzazione è una colonizzazione con altri mezzi, insomma, cioè rimane di base lo sfruttamento economico di tutte le colonie, no? E da questa letteratura si evince questa cosa qui, cioè spesso e volentieri, se non ho capito male, il discorso è sempre sull'identità, alterità, importantissimo naturalmente, e su storie di contrapposizioni o quello che è, no? Ma il discorso economico, facendo un discorso vetero-marxista da un certo punto di vista, che sta alla base di tutto, da questa letteratura si evince o no? Cioè il fatto che il colonialismo e la decolonizzazione in ogni caso ha delle ragioni economiche, fallite o non fallite a seconda di chi l'ha fatto. Questi autori hanno percepito questa cosa qui o no? Ma no, direi di no. Forse c'è un barlume di coscienza nell'autore che ho detto, Emanuele. Gli altri, beh, Flaiano scrive una storia ambientata all'epoca della guerra d'Etiopia, però lo scrive questo testo nel 1947, e io direi che nell'ultimo capitolo fa un accenno al fatto che c'è una rimozione in atto, cioè io l'ho interpretato così, nel momento in cui parla del fatto che i crimini di cui si è macchiato il tenente non interessano a nessuno, e quindi se non interessano a nessuno perché ciascuno è troppo occupato a occuparsi, troppo occupato, diciamo, dai propri crimini per interessarsi a quelli degli altri, diciamo che questo discorso metaforico si allude a una rimozione. Quindi io direi che in Flaiano c'è la percezione che si stava rimuovendo in quel periodo qualcosa dal dibattito della coscienza, ma non un discorso economico. L'autore che tratta appunto la Somalia postcoloniale o neocoloniale è Emanuelli, però io credo, ma insomma, c'è qualche allusione al fatto che, non so, questi personaggi piuttosto discutibili hanno in mano, che ne so, uno ha in mano un bananetto, cioè una concessione governativa sul bananetto, quindi qualche percezione c'è, però il discorso è condotto soprattutto attraverso, diciamo, un'ottica più morale che non economicista o marxista, come dice lei. C'era un signore che voleva intervenire, però. Sì. Io sono prete e quando ero un ragazzino mi trovavo a sognare di non essere un prete ordinario, ma di diventare missionario. E so che pregavo anche perché Dio mi dia la forza di staccarmi dall'idea di rimanere nelle mie terre per andare a essere fra quelli che sono più generosi, più bravi e dedicano la loro vita per la salvezza delle anime di coloro che più rischiano di essere perduti se non vengono sacramentalizzati, diciamo. No, era uno schema che non credo che sia solo dovuto alla mia storia, è dovuto un po' alla cultura dell'epoca anche. Quindi il contributo del cristianesimo anche in questa forma alienanti credo che sia stato abbastanza notevole nel creare poi l'idea di andare a colonizzare questa popolazione, credo. No? Adesso siamo in tutte altre epoche, mi sembra che ricordo un episodio prima dell'altro, una mia zia suora che è morta a Nairobi, no, perciò in Kenya, mi ricordo che negli anni 50, poco prima, scriveva una lettera alla mia mamma nella quale diceva che si trova così bene fra i suoi negri, diceva, più civili dei civili d'Italia. La cosa mi aveva impressionato enormemente perché scombussolava un po' la mia mentalità impregnata tutta sull'anima e sulla salvezza eterna e tutt'altro che sulla promozione della persona umana. Ma, forse quella mi ha dato lo spunto per apprezzare molto il taglio che c'è questa sera qui nel dibattito. Però la domanda la pongo lo stesso, insomma. perché adesso mi sembra che siamo tutt'altro. Prima, se non si pensa alla salvezza delle anime, si pensa al futuro di questa, dell'umanità, e che contributo ci diamo di reciprocità o di colonizzazioni neomoderne o di aiuto a vedere che ci sia un arricchimento anche dal punto di vista religioso, mentre allora dal punto di vista religioso eravamo sicuri di andare a salvare coloro che sono condannati a schemi pagani, insomma. Ecco, su questo non c'è niente nella letteratura, non se ne parla di queste cose. Allora, poi perché adesso c'è una città così secolarizzata che possa citare questo problema come non ci fosse. Ma io, negli autori di cui mi sono occupata io, c'è un riferimento in flaiano, nel senso che è un riferimento però anche qua è un po' indiretto, però questa donna che viene appunto costretta dal tenente a un rapporto sessuale e poi uccisa, in realtà diciamo da una serie di indizi del testo si capisce che è di religione copta, quindi c'è questo tema almeno del cristianesimo copto, posso dire, per quanto riguarda l'Etiopia. Però nei testi che ho letto io non ho riscontrato, ecco, per esempio le figure del missionario, non c'è traccia in quei testi di figure di questo tipo, per quanto ne so io, no, ecco. Vorrei fare una precisazione. Gentile signore, il mandato fiduciario all'Italia sulla Somalia fu provocato violentemente dall'Italia. Erano presenti in Somalia le truppe inglesi, quindi sarebbe stato giusto se l'ONU l'avesse assegnata all'Inghilterra, cosa che purtroppo non è avvenuto. Ecco, questo per chiarire il mio pensiero, non volevo essere frainteso. Vorrei leggere le due righe di un libro che ho ricevuto proprio oggi a proposito del colonialismo. Noi italiani mettemmo piedi in Africa nel 1882 ad Assabe, ne fummo espulsi ma militari nel 1943, dopo 61 anni, scanditi con ritmo regolare da 3 guerre coloniali e 2 mondiali. Vi abbandonammo la vita di forse 100.000 uomini, gli averi di 3 generazioni e somme che globalmente non sono mai state calcolate, ma che rappresentarono certamente una forte percentuale del contemporaneo reddito della madre patria. Poiché non ricavammo quasi nulla da una tale perdita di vite, di beni e di investimenti, si può tranquillamente affermare che il risultato complessivo dell'esperienza africana dell'Italia sul piano materiale fu zero. Questa è un'idea comunque che troviamo alla base anche del testo di Oltremare di Nicola Banca, no? Dice chiaramente, siccome non c'è stato un grande introito, no? Dal punto di vista, quali sono i motivi, no? Ci sono tutta una serie di perché l'Italia entra, cioè intraprende l'impresa, insomma fa l'impresa coloniale, e lui, secondo la sua teoria storiografica, i motivi sono essenzialmente politico-diplomatici. Questa è la situazione della banca, che mi sembra che concordi anche con quanto lei ha letto questo testo dettato da... Sì, questo è un libro che mi è arrivato oggi, è Storia militare d'Italia, il numero 18, l'autore Franco Bandini. Nel maggio del 35 e porta con sé tutto il Consiglio dei Ministri, nel frattempo ci sono le manovre militari al confine, perché aveva bisogno di mostrare alle nazioni europee la muscolarità del regime, e fa partire un comunicato del Consiglio dei Ministri in cui si dice: noi abbiamo un problema con l'Etiopia, non con la Gran Bretagna, come a dire anche noi vogliamo il nostro posto al sole, anche noi siamo una grande nazione. Cioè, quindi sono evidentemente ragioni, come un po' ricordava anche Mara prima, che riguardano questioni diplomatiche internazionali, cioè il ruolo e il posto dell'Italia. Tenete presente che le grandi nazioni volevano le sanzioni nei confronti dell'Italia per l'avvio dell'impresa coloniale, cioè dell'impresa della conquista dell'Etiopia. Quindi siamo in un contesto molto delicato, in un momento molto delicato nei rapporti internazionali, ma c'è da dire che anche la questione interna, cioè il consenso interno, aveva una sua importanza. Quindi sviare, per così dire, l'attenzione sui problemi interni per lanciare l'Europa e l'Italia verso conquiste grandiose, immaginando insomma la grande nazione proletaria che conquista il resto del mondo e si afferma e afferma la civiltà italiana nel mondo. Non dimentichiamo che qualche anno dopo viene pubblicato il Manifesto della Razza e c'è questa parte che riguarda anche l'Africa, il continente africano, dove si dice non esiste alcuna identità o alcuna origine di cittadini europei che vengano dall'Africa. Insomma, non è necessario per ricordare il Manifesto della Razza. Se ci sono altre domande, se altrimenti io Barbara, se tu vuoi aggiungere qualcosa che non abbiamo detto, no. Bene, allora ultimissima cosa, sì. Ultimissima, non solo informativa, esiste per caso anche la letteratura femminile? Sì, esiste una letteratura femminile, ma però legata all'epoca del fascismo, cioè quindi autrici, per esempio, sì, autrici che magari erano mogli di ufficiali e quindi hanno scritto dei romanzi ambientati. Esiste anche un testo pubblicato da una scrittrice anarchica sotto falso nome, cioè nome francese, lei si chiamava Leda Raffanelli, ma ha pubblicato un romanzo anticoloniale alla fine degli anni 20 sotto pseudonimo, credo il nome francese, Eugène Gamalet, proprio per sfuggire alla censura. Però non è un romanzo di grande valore, a mio avviso, cioè può essere interessante, curioso, ma letterariamente è un po' costruito con i soliti schemi, però rovesciati, ecco. E quindi qualche voce femminile c'è, sì, però non particolarmente significativa a livello più di valore letterario. Grazie, Fabio. Credo che questa serata sia stata splendida, la devo ringraziare e spero anche che si possa esportare, nel senso che credo che dei discorsi un po' diversi e fondati e ampi sono necessari per tutti noi. E sottolineo una cosa, a me è sembrato interessantissimo per esempio il concetto di opacità, che è meraviglioso e che vale non soltanto nei rapporti tra popoli e culture diverse, ma prima di tutto all'interno del matrimonio. Piccolissimo della irriducibilità. L'altra sera qua c'era un psicoterapeuta, Claudio Risei, credo che alcuni di voi erano qua presenti, che ha parlato contro in un certo senso la psicologia che impone ai bambini di esprimersi a tutti i costi e di tirare fuori, che è una psicologia produttivistica, potremmo dire cognitivistica, ma anche neoliberista, e cioè questo ha bisogno di essere produttivi, eccetera, mentre invece il bambino ha bisogno di conservare la propria opacità, perché la condizione della sua opacità è il nostro rispetto. Cioè non pretendere di trasformarlo in qualcosa che abbiamo in mente, no? Ultimissima cosa che vorrei dire, mi è capitato di avere tra le mani delle riviste della National Geographic degli anni 30 e 20. E ho capito subito da dove venivano i disegni di Paperino e Topolino. Se qualcuno di voi riesce ad andare lontano con la memoria, si ricorderà come venivano disegnati gli africani da Walt Disney. Perché dico questa cosa? Dico questa cosa perché dobbiamo avere un'estrema compassione nei confronti della nostra ignoranza e della nostra plasmabilità interiore. Cioè il discorso del razzismo non è un discorso che viene imposto, diciamo così, traumaticamente, perché altrimenti lo rifiuteremo. Noi invece siamo consenzienti al discorso del razzismo, dell'intolleranza, della superficialità. È più facile, perché risponde a qualcosa nella quale noi siamo pronti a metterci la pancia. Ed ecco che allora è molto importante avere delle occasioni di questo tipo, che io chiamo interstiziali, perché occasioni di questo tipo sono situazioni reali, siamo rapportabili e escono fuori dai grandi numeri, perché i grandi numeri li fanno i talk show, li fanno i battibecchi, li fanno le isole dei famosi, li fanno la Juve che cosa ha fatto e quel calciatore perché si è lasciato con quell'altra, eccetera. Tutte cazzate, scusate se lo dico in maniera così brutale, perché non ci danno niente di spendibile nella nostra vita. Dopodiché succedono le cose più atroci e più assurde. I bambini che fanno i bulli, i vecchi che sono menati da chi dovrebbero invece proteggerli. E allora bisogna stare molto attenti, ecco perché dico compassione, perché dobbiamo avere attenzione al nostro scivolare da persone che dormono in qualcosa di cattivo.